Non cambierei questa vita con nessun'altra. Lo dici tu con quell'aria così convinta. E tieni il tempo di un pezzo solo per noi dal finestrino. Il mondo sembra più stanco che mai. E mentre radio col mare si mangia tutto, scrivi bastardi sul vetro con il rossetto. C'è una carraia, mi dici fermati qui, balliamo lento, nessuno l'ha mai ballato così. E guardo te, vedo che l'amore la fa dare, altro che alzi le braccia e giuri che abbiamo sempre vinto noi. E abbiamo vinto noi. Non cambierei questa vita con nessun'altra. Ed una lacrima scende ma non fa niente. Ci siamo persi qua giù, ci siamo persi. E in un momento ci ridi già su. E guardo te, vedo che la musica va da sé. Altro che, ma tu questa notte girala pure, girala come vuoi. Giorno morto, intanto risorto. Le prime luci si stanno accendendo laggiù. Di lunedì cosa trovi di aperto? Di lunedì le chiavi di tutto le hai tu. Non cambierei questa vita con nessun'altra. E guardi il mare che schiuma, si è fatta l'alba. Ci siamo persi qua giù, ci siamo persi. Dimmi che cosa vorresti di più. E guardo te, vedo che l'amore.